Letture di Radio 24. La compostezza e il coraggio con cui gli inglesi hanno reagito all'ennesimo attentato di matrice islamica, riprendendo la vita di tutti i giorni senza odi né rancori, hanno suscitato ammirazione in tutto il mondo. Ha invece scatenato grande indignazione l'ennesimo episodio di vigliaccheria da parte di chi, in nome di una non richiesta deferenza verso i musulmani, cerca di cancellare le tradizioni secolari del mondo occidentale. Dopo essersi abbattuto sul Natale, cancellando recite scolastiche o trasformando le feste di Natale in feste dell'inverno, il politicamente corretto portato all'estremo parte ora all'attacco della Pasqua. Ogni anno il National Trust, l'ente che amministra parchi e castelli in tutto il Regno Unito, organizza la caccia alle uova di Pasqua nei suoi giardini, ma questa volta hanno voluto eliminare il riferimento alla Pasqua, ribattezzando l'evento Grande Caccia Britannica alle Uova, scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, che poi prosegue. Cadbury, l'azienda dolciaria che sponsorizza la festa, ha spiegato che l'obiettivo è coinvolgere i non cristiani e invitare persone di tutte le fedi e di nessuna a godere delle nostre prelibatezze di stagione. Ne è nato un putiferio che ha visto l'intervento dello stesso primo ministro. Theresa May, pur in visita in Arabia Saudita, ha trovato il tempo di commentare che la Pasqua è molto importante, è importante per me, è una festa molto importante per la fede cristiana di milioni di persone in tutto il mondo. E ricordando di essere non solo la figlia di un pastore anglicano, ma anche un membro del National Trust, ha aggiunto: la posizione che hanno preso è assolutamente ridicola e non so proprio a cosa stessero pensando. La Chiesa d'Inghilterra ha rincarato la dose. Un portavoce ha stigmatizzato la follia di cancellare la fede della Pasqua e l'arcivescovo di York ha affermato che equivale a sputare sulla tomba di John Cadbury, il fondatore dell'azienda, la cui fede cristiana aveva influenzato la sua attività industriale. Il National Trust ha cercato di correre ai ripari e martedì mattina il sito web era stato aggiornato con l'aggiunta della parola Pasqua alla pagina che promuove la caccia alle uova. È insensato suggerire che stiamo minimizzando il significato della Pasqua. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità, hanno spiegato. Ma intanto già diversi membri avevano contattato la BBC per annunciare la propria uscita dall'associazione. Anche Cadbury si è affrettata a ricordare che la Pasqua è presente in gran parte delle sue campagne promozionali e che lo è stata per oltre 100 anni. Ma è evidente che in una società multietnica e in gran parte post-religiosa come quella britannica, il riferimento o meno a una fede rischia di diventare un fattore di contesa. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Luigi Ippolito «E a Londra si litiga sulla caccia alle uova di Pasqua», dal Corriere della Sera del 5 aprile. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Letture di Radio 24. Nei rari casi in cui durante un furto o una rapina il derubato cerca di difendersi o di proteggere i propri familiari, si parla di giustizia da Far West. Ma come dimostra l'ennesimo caso di rapina finita nel sangue, nel Far West ci siamo già. Subire non serve a niente, commenta Luca Fazzo sul Giornale, che poi prosegue. Se davanti al bandito che attacca una casa, un negozio, un ristorante, la vittima sceglie di non reagire, per incapacità, bontà d'animo o per semplice paura delle ritorsioni del criminale che si trova davanti e cerca insomma di arrendersi, ecco, neanche questo funziona. Perché le cronache sono piene di incursioni che si trasformano in brutalità e ammazzamenti senza che nemmeno un accenno di reazione fosse venuto dalla vittima. Inginocchiarsi non serve davanti a nemici che hanno dentro di sé l'adrenalina dell'impresa e negli occhi, come racconta la moglie dell'ultimo ucciso, il barista di Budrio, nessuna scintilla di umanità. Quindi, se arrendersi non serve a niente, quali indicazioni, quali precetti fornisce lo Stato ai suoi cittadini, trasformati in bersaglio dall'unica colpa di possedere qualcosa, di aver conquistato a fatica un piccolo benessere. Non possiamo trasformare l'Italia in un Far West, tuonano i ben pensanti del politicamente corretto, quelli che il trauma di un coltello alla gola non l'hanno mai provato, ogni volta che un padre di famiglia mette il dito sul grilletto per difendere sé, i suoi cari o semplicemente i suoi soldi. Non si accorgono, i ben pensanti, che il Far West è già qui, nelle praterie della Padania, dove i mucchi selvaggi dei pistoleros scorrazzano in BMW. Non è ammesso farsi giustizia da sé. Non è da paese civile, dicono, senza capire che chi tira fuori la doppietta dall'armadio non vuole farsi giustizia, ma soltanto garantirsi la sicurezza che lo Stato non è in grado di offrirgli, per evitare che siano poi i suoi cari a chiedere giustizia per la sua morte in una navata di chiesa o in un'aula di tribunale. Eppure così non va bene, non può andare bene. Non può essere una sicurezza fai da te la risposta che lo Stato lancia ai milioni di italiani vittime potenziali di questi Jesse James balcanici. Considerazioni etiche o religiose o giuridiche a parte, la risposta non può essere questa. Perché faccia a faccia, arma contro arma, il cittadino è perdente. Si è appena svegliato, non tocca un'arma da mesi o da anni e ha una coscienza. Lui. Se ogni irruzione in villa dovesse trasformarsi in duello all'OK Coral, a restare sul terreno 9 volte su 10 sarebbe il padrone di casa. Non è tutto. Più sparatorie vuol dire banditi più tesi, più armati, più pronti a fare fuoco per primi. Di un innalzamento del livello dello scontro, a pagare le conseguenze sono sempre i più deboli. Allora, se arrendersi non serve a niente, se l'autodifesa è un rimedio peggiore del male, l'unica risposta che lo Stato può dare è fare davvero il suo dovere, ovvero proteggere i cittadini che lo mantengono con le loro tasse. In un paese dove in 10 anni i furti nelle abitazioni sono raddoppiati fino alla folle media di 17,9 reati su 1000 abitazioni e dove l'Istat è ridotta a festeggiare un rallentamento della crescita, che è cosa ben diversa da una diminuzione, questo è il dovere dello Stato. È un compito arduo e costoso, ma possibile. Non abbiamo davanti un nemico senza volto, ma uomini, e nemmeno tanti, identificabili e spesso identificati, di cui si conoscono le zone di provenienza in Italia e all'estero, e di cui le moderne tecnologie sono in grado di prevenire e reprimere le imprese. Certo, bisogna decidere che questa battaglia è una priorità per le forze dell'ordine e anche per le procure, che spesso confinano i reati predatori nei piani bassi delle loro agende. Nel frattempo, la si smetta di scandalizzarsi se un paese chiude gli accessi al calare delle tenebre o assume gli sceriffi. Così si faceva nel West, in fondo. Si smetta di indignarsi se finalmente un ministro dell'interno di sinistra si accorge che la sicurezza è un'emergenza nazionale. E qualcuno spieghi al procuratore della Repubblica di Lodi, pronto a incriminare per omicidio volontario il tabaccaio che a Cugnano ha messo mano al fucile dopo essersi trovato i ladri in casa, che in quei momenti un uomo pensa solo a difendere ciò che gli sta a cuore e che non serve chiedere pietà. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Luca Fazzo, «Ma qual legittima difesa?» Nel Far West ci viviamo già, dal Giornale del 3 aprile. Ogni volta che la vittima di un furto o un'aggressione cerca di reagire, il commento più ricorrente è che in questi casi bisognerebbe sempre affidarsi alla giustizia. Sì, ma quale giustizia? I dati ufficiali diffusi nei giorni scorsi dimostrano che un arrestato per rapina su 2 è già fuori dalla cella dopo 1 anno. Colpa dell'ennesimo decreto svuota carceri e delle lungaggini della giustizia, talmente lenta che spesso riesce a far scadere i termini per la custodia cautelare. Per non parlare dei vari casi in cui è praticamente impossibile portare in carcere un criminale. Vedasi l'esempio della gang di donne bosniache, tutte perennemente incinte, che da anni si occupa di borseggi a Milano, sapendo bene che anche in caso di arresto verrebbero immediatamente rilasciate. Oppure i casi frequenti in cui i rapinatori, pur essendo rei confessi, in carcere non ci vanno nemmeno 1 giorno. Ecco cosa scrive Fabio Tonacci sulla Repubblica. Alessia e Christian sono due rapinatori. Il 13 settembre scorso hanno drogato Valentino mescolando benzodiazepine alla sua bibita. Gli hanno rubato il portafogli e il bancomat, lo hanno mandato all'ospedale. La polizia li ha beccati grazie alla telecamera della banca da cui hanno prelevato con la carta. Christian ha confessato subito, quindi i due hanno patteggiato la pena per il reato dell'articolo 628 del codice penale, la rapina appunto. Quando non è aggravata, sono previsti da 3 a 10 anni di prigione. Ma Alessia F. e Christian C. non hanno mai fatto un giorno di carcere. Questa storia, piccola ma simbolica, arriva da Pescara e traduce infatti quel sentimento sempre più diffuso, in una parte dell'opinione pubblica, che ritiene che in Italia non vi sia certezza della pena, che ladri e rapinatori, cioè, non vengano perseguiti come si dovrebbe o evitino quasi sempre di pagare per i loro crimini. Ancora 2 giorni fa è stato il sindaco di Budrio, Giulio Perini, a rilanciare il tema, dopo l'omicidio del barista Davide Fabbri. L'unica giustizia è quella della legge. Occorre la certezza della pena. L'argomento è assai complesso e investe tutto il sistema della giustizia. A Pescara, per dire, i due rapinatori, Alessia e Christian, hanno potuto beneficiare degli effetti del decreto svuota carceri, che impedisce la custodia cautelare dietro le sbarre, salvo per reati più gravi, se si prevede che sarà inflitta una pena non superiore ai 3 anni alla fine del processo. Per Alessia, che ha fatto da esca e ha drogato la sua vittima, è bastato l'obbligo di dimora a Pescara per 1 anno. Poi, con il patteggiamento, le attenuanti generiche, il peso della fedina penale fino ad allora pulita, la sospensione condizionale della pena, i due rapinatori hanno chiuso la questione senza scontare neanche un giorno. Alcuni dati ufficiali e inediti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dimostrano infatti che il richiamo dei sindaci alla certezza della pena non è poi così campato in aria. Nel 2015 nel nostro paese sono state arrestate 10.203 persone con l'accusa di rapina. La metà di queste è già uscita. Ad oggi 3.573 sono state scarcerate per proscioglimento o decorrenza dei termini, che significa che gli indagati erano sottoposti a custodia cautelare per evitare che scappassero o ritornassero a rapinare, ma poiché il processo tardava ad arrivare, il magistrato li ha rimessi in libertà. Altri 1.741 detenuti, invece, non sono più in cella perché sono stati concessi loro i domiciliari o l'affidamento ai servizi sociali. Sommando le due cifre, fa il 50%, 1 su 2. La tendenza nel 2016 si conferma. Su 10.139 arrestati per rapina, sono ancora in prigione 6.120. Gli altri sono stati scarcerati o sono fuori perché ai domiciliari oppure affidati ai servizi sociali. Tanto lavoro per nulla, commenta Enzo Letizia, segretario dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Sono dati sconcertanti. Oltretutto, invece di aumentare i posti nelle nostre carceri, si sono scelte normative come lo svuota carceri, che pur partendo da un principio corretto, finiscono per andare in direzione opposta alla certezza della pena. Nelle grandi città, le forze di polizia soffrono sistematicamente della riduzione di organici e risorse e quindi tendono a non dare priorità investigativa a piccoli furti e a rapine di poco conto, realizzate senza armi da fuoco. Così si spiegano le impietose statistiche dell'Istat, che fissano al 4,6% la percentuale media dei furti di cui si è scoperto il responsabile e al 25,5% quella delle rapine. Avete ascoltato l'articolo di Fabio Tonacci? Un arrestato su 2 fuori dalla cella dopo 1 anno. Manca la certezza della pena. Dalla Repubblica del 4 aprile.